Lingua Italiana, edito di Giovanni Treccani, definisce l'estremismo, il vocabolario dell'atteggiamento di chi nell'azione politica propugna l'attuazione di un programma con misure estreme, con metodi radicali, intransigenti, anche il complesso di forze o di gruppi politici che assume tale atteggiamento. Continua poi col dire. Col significato più generico, la posizione di chi sostiene teorie estreme, molo avanzate. Quando si esamina il significato di una parola, è bene e saggio informarsi consultando il vocabolario, perché anche se il primo a idearlo è stato un certo Leonardo Salviati, stampato il 20 gennaio, nel 1612, esso esprime l'opinione comune delle persone, anche se non sempre si trova scritto quello che ci si aspetterebbe. Dato che la parola estremismo o estremista non piace a nessuno, perché ha una connotazione negativa, vale la pena fare alcune riflessioni più approfondite, con lo scopo di aiutare tutti a vivere bene e a non diventare estremisti. Anche se la parola estremismo e i suoi derivati non piacciono a nessuno, e anche se nessuno vuole essere estremista, dobbiamo iniziare le nostre riflessioni con il dire che senza estremismi non è possibile vivere e relazionarsi. Se 2 più 2 fa 4 e affermo che non può fare 5, sono estremista o assolutista. Se vedo una pera e affermo che non può essere assolutamente un gatto, sono pure estremista. Perciò, nell'affrontare questo argomento, bisogna innanzitutto non avere un atteggiamento estremista nei confronti di esso. L'esempio della pera dimostra che la realtà è estremista. Una pera è pera. E non può essere un gatto. Mentre l'esempio che 2 più 2 faccia 4 dimostra che anche la matematica è estremista. Senza questi estremi vivremo nel caos più totale. Grazie agli estremismi noi possiamo relazionarci con il creato e avere una sana società. Perché se la legge non fosse uguale per tutti, come ci comporteremmo? Se la legge di gravità non fosse estremista, cioè non fosse sempre uguale, come potrebbe l'uomo inventare macchine che volano? E come potrebbe l'uomo stabilire norme se queste non fossero uguali per tutti? Quindi, anche la legge è estremista. Se il codice stradale vieta di superare i 50 km all'ora, è inutile che riserbi nel cuore un'avversione verso di esso, perché la regola rimane tale nonostante i miei avversi sentimenti. Noi viviamo di estremismi, ci nutriamo di essi, li formuliamo perché essi ci diano quella sicurezza della quale abbiamo bisogno. Il vocabolario della lingua italiana, edito da Giovanni Treccani, ha commesso però una mancanza, probabilmente voluta perché molto imbarazzante e impegnativa, non facendo alcun riferimento alla sfera religiosa. E di questa che mi occuperò con coraggio o in coscienza, dipende dai punti di vista. Nulla vi è più di estremo della religione. Tanto è vero che, nonostante tutti gli sforzi tesi ad armonizzare le tante religioni tramite l'ecumenismo, non si riesce ad avere un'unica religione. Anche il cristianesimo ha i suoi estremismi. Gesù è l'unico Dio, è l'unica verità, è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini. Che la divinità abbia degli estremismi è più che giusto, diversamente, se fosse uguale agli esseri umani, non sarebbe più una divinità da rispettare. Anche gli uomini hanno i loro estremismi, però con una differenza. Gli estremi in Dio esistono come parte della sua sussistenza. Egli è immortale, onnisciente. Nell'uomo sorgono a causa dell'eventuale modo estremo in cui si segue la divinità. Quando si può dichiarare estremista un essere umano? Quando segue alla lettera ciò che ha ordinato la sua divinità? Non credo. Prendiamo esempio il culto rivolto a Gesù Cristo, nel corso del quale, per ricordarne la morte e resurrezione, si prendono il pane e il vino secondo il suo comandamento. 1 Corinzi 11, 23-26. Alcuni, per non essere estremisti nell'osservare questi comandamenti, al posto del calice devono da dei bicchierini al posto di un unico pane, utilizzano tanti pezzi di pane separati. Una posizione che potrebbe anche essere comprensibile, ma perché al posto del vino non si prende allora una birra e al posto del pane, sempre per non essere estremisti, nell'osservanza delle regole di Gesù non si prende una carota. Mi si direbbe che la birra e la carota non hanno senso. Perché non hanno senso se questi servono per ricordare la morte di Gesù? Hanno forse il vino e il pane un significato, che non possiedono la birra e la carota? Certamente. Se un solo pezzo di pane e un solo calice hanno un preciso significato, 1 Corinzi 10 e 16, cambiandoli in più bicchierini e in più pezzettini di pane, il messaggio è un altro. In effetti, un solo calice con un unico vino comunicano che vi è un solo sangue, capace di perdonare i peccati, al quale tutti partecipiamo mediante un solo calice. Inoltre, non bisogna dimenticare che solo il vino è associato al sangue. Genesi 49:11. Così del pane. Il pane è formato dal grano, il quale per produrre del pane deve morire. Un unico pane ci ricorda che facciamo parte di un solo corpo e partecipare a questo unico pane significa che tutti siamo salvati per l'unica opera di salvezza in Cristo. 1 Corinzi 10:17. Mezzogiorno e 12. Un messaggio, questo, non certamente nuovo, se lo fosse, è a causa di un individualismo che impera nella società. Un individualismo che il ricordo della morte di Cristo, mediante un unico calice e un unico pane, è in grado di togliere. Perciò l'estremismo non sta nell'osservare attentamente gli ordini di Gesù, anche perché, pure nel momento in cui si vuole evitare di ubbidire ai suoi ordini, si diventa estremisti. Se tra qualche anno tutti berranno dei bicchierini e mangeranno pezzetti di pane diversi, per non essere estremisti, si potrebbe mangiare del maiale e bere acqua. Il maiale ricorda la natura peccaminosa che Gesù non aveva, l'acqua, la sua purezza. Mi chiedo, perché Gesù si è tanto impegnato a darci certi ordini precisi, con minuziose disposizioni? Osservando scrupolosamente le leggi di Dio, non si diventa estremisti. Come osservare scrupolosamente il codice stradale o la matematica non è una forma di estremismo. L'estremismo consiste nell'interpretazione sbagliata di queste regole. Se leggo nei 10 comandamenti che non devo uccidere, ovviamente devo osservarlo. Ma è anche vero che questo ordine, osservato all'estremo, può arrivare a far avanzare la malvagità. Dio aveva ordinato la pena di morte per certe colpe. Si comprende quale sia esattamente la volontà di Dio, solo tenendo presente che in ebraico il comandamento cita «non assassinerai», il che voleva dire di non uccidere per vendetta o per odio. Quando leggo di porgere l'altra guancia a chi mi percuote, Gesù non voleva intendere di essere degli estremisti e dei rimbambiti nella vita sociale, ma di non reagire nel caso si venisse ad essere offesi a causa della propria fede. Gesù e Paolo, in caso di percosse ingiuste, non hanno chiesto di essere ancora battuti, ma hanno reagito. Giovanni 18:23, Atti 22:1-6. Infatti, Dio ci ordina anche di difendere le proprie cause. Proverbi 25:8-9. Proprio per questi errori di interpretazione della volontà di Dio, si possono commettere degli atti estremi, come un teologo e famosissimo studioso delle scritture, Origene, il quale si è evitato, perché Gesù ha detto che ci sono eunuchi, che si sono fatti tali per il regno di Dio, Matteo 19:12. Meno male che non ha preso alla lettera il comandamento di tagliarsi la mano quando questa ci induce a peccare, Marco 9:43, proprio perché molti credenti hanno sbagliato nell'osservare letteralmente certi ordini di Gesù, molti altri credenti, impauriti e scandalizzati, ritengono opportuno non essere così scrupolosi, ma a meno, come si è detto meno. L'estremismo sta nella comprensione e non in Dio. Sono estremista quando non onoro Dio, quando non faccio del bene al prossimo e quando non rispetto me stesso e la mia famiglia. Gesù racchiuse tutti questi principi in un solo comandamento. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Matteo 7:12. Comprendo che i talebani siano coerenti con quello che capiscono. Comprendo che i conduttori di una comunità sono coerenti con la loro capacità di capire la scrittura. Comprendo pure che certi credenti mantengono rancori e amarezze nel loro cuore per una certa coerenza. Ma non comprendo come tutto questo possa essere in armonia con quello che Gesù ha detto. Saresti contento se gli altri ti trattassero come tu tratti gli altri? Forse dirai di sì, ma sappi che sarai giudicato secondo come tu giudichi gli altri, e, se i tuoi giudizi sono duri e estremisti, quando dovrai rimangiarteli avrai dei grossi problemi, ma non solo ai denti. In definitiva, se sei estremista, sarai giudicato con estrema durezza. Spesse volte si ritiene estremismo quando ci imbattiamo in comandamenti abbastanza rigorosi che ci fanno soffrire, sia quando li deduciamo direttamente nella lettura della Bibbia, sia quando ci sono imposti da altri come volontà di Dio. A volte è possibile che accada anche nell'ambito umano. Gesù, quando era estremista, lo è stato solo nei suoi confronti. Egli non ha mai parlato con mezzi termini. Non ha mai voluto dei seguaci obbligati e scontenti, ma ha sempre parlato chiaro. Chi poneva fede in lui doveva ritenerlo Dio e, di conseguenza, mettere al secondo posto ogni altra cosa, compresi gli affetti familiari. Chi lo voleva seguire non doveva assolutamente guardare indietro con nostalgia al passato e doveva prendere su di sé le difficoltà conseguenti a tale scelta. Non vi erano e non vi sono vie di mezzo. In merito all'ambito umano, Gesù non ha mai dato ordini disumani tali che non si potessero mettere in pratica, ma chiede fedeltà fino alla fine. Uno dei problemi giovanili, e non solo, sono i comandamenti in merito alla sessualità. Gli ordini di Dio in merito considerano licita la sessualità solo nell'ambito matrimoniale, quando, inoltre, il matrimonio sia contratto solo con chi possiede la stessa fede. Ogni altra relazione sessuale allacciata prima e fuori del matrimonio, come una unione mista nella fede, è ritenuta illecita da Dio. Comandamenti precisi, che non hanno controindicazioni e non dovrebbero suscitare obiezioni, ma, poiché la pulsione sessuale è molto forte e il romanticismo è fatale, molti si chiedono se non sia estremismo osservare letteralmente tali comandamenti. Il che vuol dire non commettere mai fornicazione e adulterio, e non sposarsi mai con chi possiede una fede diversa. Il mai in questo caso viene ritenuto estremismo, perciò potrebbe essere lecita qualche irregolarità sessuale prima e dopo il matrimonio, come sposare anche qualcuno di altra fede o pagano. Come dire, poiché 2 più 2 fa sempre 4, è un estremismo, perciò facciamogli fare 5. Chi ragionerebbe così? Il fatto che la matematica sia estremista, che la legge sia estremamente sempre quella, che la realtà sia estremamente vera, non è sbagliato. Come non è sbagliata la specifica e costante osservanza di un comandamento di Gesù, senza disobbedienza alcuna. Se possiamo evitare questo estremismo, perché allora non commettere qualche omicidio, qualche furto, adorare qualche altra divinità e, casomai, anche disubbidire qualche regola del codice stradale? Perdonerebbe la polizia stradale anche un solo sorpasso vietato? Uno solo? No! Perché allora dovrebbe perdonare Dio anche una sola trasgressione della sua volontà? Forse riterrai che sia estrema la sua reazione, ma prova a pensare se qualcuno commettesse un solo scasso a casa tua, o ti uccidesse un solo figlio, o violentasse tua moglie anche una sola volta. Non essere estremista nel giudicare l'estremismo. I metodi intransigenti diventano tali quando non c'è amore, comprensione e umanità. Ma, per quanto possiamo dire, Dio è pieno di amore, comprensivo e umano. Comportati come Dio nella tua umanità e vedrai nell'umanità il divino. 2013 01 17 Ellero.